in order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. 16 e 15 minuti primi, ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante che vi accompagnerà per circa un paio d'ore. Come abbiamo già detto nel sommario poco fa, siamo in collegamento con una compagna del collettivo Senza Numero. Intanto benvenuta a Silenzio Assordante. Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti. Ciao, ciao, grazie ciao. Intanto per la partecipazione. Io ti lascio subito la parola, ti chiedo intanto di darci due informazioni sull'iniziativa che ci sarà martedì 16 ottobre e poi se ti va di presentare un po' che cosa fate con il collettivo Senza Numero, così intanto introduciamo l'argomento. Sì, allora, dunque, il prossimo martedì 16 ottobre ospiteremo, diciamo, la presentazione del libro Indagine su un'epidemia di Robert Whittaker, e ci sarà lui, l'autore, in realtà a presentare il libro presso la sala ovale del Parco delle Energie in via Prenestina 175. E, allora, noi del collettivo Senza Numero siamo un collettivo antipsichiatrico nato ormai, diciamo, circa 4 anni fa, in seguito a tutta una serie di vicende che hanno coinvolto persone vicino a noi e che, insomma, hanno implicato una serie di meccanismi repressivi da parte della psichiatria di diverso tipo, e da quel momento abbiamo cominciato ad attivarci, diciamo, anche passi dall'emergenza e poi a farci tutta una serie di ragionamenti su poi come funziona questo meccanismo e tutti i vari tentacoli appunto che partono, diciamo, dalla macro categoria della psichiatria. E quindi abbiamo, insomma, avviato tutto un percorso e abbiamo fatto una serie di iniziative di informazione e controinformazione in cui sostanzialmente cerchiamo di sensibilizzare all'argomento, visto che insomma è volutamente reso inaccessibile al pensiero comune, e quindi abbiamo cominciato a fare una serie di workshop di autoformazione, ad esempio sul TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e per cercare un po' di capire quali sono i modi per difendersi poi dal TSO, ad esempio. E abbiamo prodotto una serie di opuscoli che, se, insomma, chi fosse interessato, è tutto scaricabile dal nostro blog senzanumero.noblogs.org, dove ci sono anche riferimenti rispetto alle nostre riunioni per chiunque, insomma, voglia partecipare. Ci vediamo con cadenza settimanale e, insomma, quello che facciamo sostanzialmente è confrontarci ogni qualvolta si presenti una situazione che lo richiede, e insieme decidere un po' insomma come muoverci, e appunto principalmente cercare anche noi di ragionare e di entrare sempre più nel merito di questi meccanismi, di come funzionano e di come sostanzialmente liberarci da quelle cure, tra virgolette, che poi tanto curative non sono, sono piuttosto coercitive. E se volete entro un po' nel merito dell'iniziativa di martedì. Sì, vai. Appunto, noi volevamo un po' chiederti un po' quali sono i temi, qual è il tema, diciamo, a livello generale, principale, che si tratterà in questa iniziativa, perché, come dicevi tu, insomma, la psichiatria o tanti temi che riguardano la psichiatria sono piuttosto inaccessibili al senso comune, però poi effettivamente, diciamo, la psichiatria è una cosa usata a livello massivo. E infatti riprendiamo proprio dal titolo anche del libro Indagine su un'epidemia, perché di fatto di questo si parla nel concreto. Quindi, insomma, introduci un po', se ti va, il tema generale di questa iniziativa, poi ci facciamo una chiacchierata, entriamo anche più nello specifico magari di alcune questioni. Ok, assolutamente sì, hai ragionissimo, nel senso che poi è pervasiva la psichiatria e quindi insomma, quello che tratta questo libro è, allora, diciamo innanzitutto che è una ricerca piuttosto corposa e dettagliata, che mette al centro gli psicofarmaci, partendo dalle origini, passando per le sperimentazioni degli ultimi decenni fino ad arrivare ad oggi. che possiamo definire come l'era del boom degli psicofarmaci, e la domanda un po' centrale del libro è come mai proprio nell'era del boom degli psicofarmaci le disabilità psichiatriche, anziché diminuire, stanno andando incontro ad un aumento esponenziale. E diciamo, nel rispondere a questa domanda, Whittaker riporta una sintesi della principale letteratura scientifica sul tema, mostrando uno scenario, cioè, piuttosto incoerente e preoccupante. E, diciamo che proprio brevemente, accennando alcuni contenuti, l'inizio della cosiddetta rivoluzione psicofarmacologica, perché è così che viene chiamata dagli stessi psichiatri, avviene con la scoperta piuttosto casuale della clorpromazina, ovvero il primo farmaco antipsicotico messo sul mercato, scoperto in seguito a una serie di sperimentazioni in cui si voleva trovare in realtà la cura per una serie di malattie come la malaria, quindi malattie che non erano direttamente legate alle condizioni psichiche. In quello stesso anno vennero scoperti e introdotti sul mercato farmaci con effetto tranquillante minore, che sono, diciamo, erano i precursori degli odierni ansiolitici, e due anni dopo gli antidepressivi. Ecco, per più o meno di che anni si parla, così anche gli ascoltatori e le ascoltatrici magari hanno un quadro. Come, scusami? In che anni più o meno questo di cui stai parlando avviene? Scusa, nel 1955 viene introdotto il primo antipsicotico. Perfetto. E dal 55 al 57 c'è il boom di ricerche su questo, e quindi vengono praticamente scoperti e creati le tre macro categorie di farmaci tuttora, diciamo, utilizzati, che sono appunto ansiolitici, antidepressivi e antipsicotici. E in seguito, diciamo, quindi l'unica certezza degli scienziati dell'epoca era che questi farmaci in qualche modo agivano sul cervello, e il cervello rispondeva all'azione di queste molecole. Da questo momento nasce la necessità di trovare una causa biologica, organica, di un cosiddetto malfunzionamento psichico nelle persone affette da cosiddetti disturbi mentali. Scusate se uso sempre questi cosiddetti, ma non posso far vedere le virgolette perché, insomma, non condivido tantissimo i termini come malattia, certo, mentale, certo, disturbi mentali, però ecco, per essere chiari, per dire. E quindi, insomma, tutta questa questo bisogno di trovare una causa organica ha guidato la ricerca dei decenni successivi, e tuttora è così. Diciamo che, senza entrare troppo nel dettaglio, il modello che si è imposto di più è quello degli squilibri chimici del cervello, per cui ad esempio la depressione sarebbe causata da una quantità insufficiente di serotonina, mentre la psicosi da una quantità eccessiva di dopamina, che sono, insomma, neuromodulatori del cervello, e queste furono le ipotesi un po' più gettonate. E questo modello biologico in realtà, poi se vediamo, è piuttosto interiorizzato nel pensiero comune, cioè siamo portati un po' a dare per scontato che sia così, no? Il problema di fondo è che in realtà, come poi mostra anche chiaramente il libro, le ricerche che si sono susseguite negli anni non hanno confermato realmente questo modello, e i numerosissimi studi che avevano il fine di testare l'efficacia dei farmaci hanno portato a conclusioni alquanto controverse. Innanzitutto per un problema di metodo, cioè allora, gli studi inizialmente misuravano esclusivamente gli esiti a breve termine dei farmaci, che ovviamente erano per lo più positivi, questo perché che si tratti di farmaci appunto antipsicotici, ansiolitici o antidepressivi, l'assunzione iniziale porta ovviamente a un sollievo dei sintomi. Quando però si sono cominciati ad approfondire anche gli effetti a lungo termine, si è visto che le persone trattate in modo continuativo con i farmaci, quindi parliamo, che ne so, di dai 6 ai 18 mesi, presentavano esiti significativamente peggiori delle persone che invece o non avevano, insomma, non erano in cura farmacologica, o che avevano interrotto l'assunzione dei farmaci dopo un breve periodo. E inoltre i tassi di ricaduta e di riospedalizzazione aumentavano in correlazione con il dosaggio e con la durata della terapia farmacologica. Questo perché l'assunzione di farmaci sostanzialmente porta a una modificazione dell'assetto neurale cioè i neurotrasmettitori cominciano a funzionare in modo diverso, a rilasciare quantità diverse di neuromodulatori che sono appunto ad esempio la dopamina, la serotonina, ma sono tantissimi, così, cioè nello stesso modo in che fa ogni altro tipo di sostanza psicotropa. E la differenza ovviamente qui è l'uso continuativo e anche legittimato che si fa, perché è sostenuto comunque da un modello medico, e che quindi può portare insomma a un danno cerebrale non indifferente. E questa è un po' la questione centrale del libro, cioè quanto più è alto il dosaggio e lunga l'assunzione dei farmaci, tanto più è alto il rischio di andare incontro a una cronicizzazione della malattia. Ok, e quindi diciamo la domanda nasce un po' spontanea, e cioè come mai, nonostante tutte queste evidenze scientifiche, che ovviamente qui sono le ho ridotte molto, ma per chiunque abbia voglia di leggere il libro si renderà conto, cioè impressionante insomma, perché e parlo di evidenze scientifiche, letteratura scientifica, non anche qui per fare vanto di quest'area, però perché è la stessa famiglia della psichiatria, quindi certo, insomma anche un po' incoerente come poi quello che avviene. Sì, diciamo un'indagine interna allo stesso sistema che si critica, quindi da questo punto di vista dettagliata e esatto, interessante proprio per questo. Cioè, nel senso Whittaker ha fatto una rassegna degli studi riconosciuti a livello scientifico degli ultimi 70 anni, anzi 70 anni. E quindi insomma come mai, nonostante tutte queste evidenze, non si è riusciti a mettere in discussione poi l'utilizzo continuo degli psicofarmaci e il modello biologico della psichiatria che vanno a braccetto. E diciamo, cioè Whittaker diciamo nella seconda parte del libro risponde anche un po' a questo quesito, e lo fa ripercorrendo le evoluzioni della lobby psichiatrica. Infatti in realtà intorno agli anni 70 la psichiatria ha vissuto una grossa crisi che lui chiama una crisi di identità, dovuta al fatto un po' che diciamo la leggenda delle pillole miracolose non era più credibile, in parte per questi studi di cui abbiamo parlato, in parte perché era evidente che le persone che assumevano farmaci non stavano bene, cioè comunque insomma non può essere una soluzione efficace al 100% a livello di benessere generale. E inoltre quegli erano gli anni in cui nasceva e si affermava sempre di più la psicoterapia come risposta al disagio psichico e alle nevrosi, diciamo. Mm-hmm. E che la psicoterapia, come ben sappiamo, non prevede l'uso di psicofarmaci. E quindi diciamo in aggiunta si affermava a livello internazionale un movimento antipsichiatrico che era anche piuttosto sentito. Quelli sono insomma erano gli anni della chiusura dei manicomi, certo. In Italia abbiamo forse uno degli esempi più importanti con il movimento Basagliano. E quindi ecco, in questa grossa crisi, da quel momento l'APA, l'American Psychiatric Association, comincia una stretta collaborazione con le aziende farmaceutiche. Perché queste iniziano a finanziare la ricerca sui farmaci, e quindi avviene questo effetto paradosso per cui la ricerca sui farmaci dipende ed è monitorata dalle stesse case farmaceutiche. E quindi ecco, insomma, vi lascio immaginare cosa vuol dire questo rispetto alla correttezza del metodo negli studi, ai risultati attesi, agli esiti che vengono comunicati poi nei più importanti convegni internazionali e nelle riviste scientifiche. Certo, poi questo purtroppo avviene anche per altri tipi di malattie in cui appunto ovviamente farmaindustria dovrebbe in qualche modo lavorare per distruggere se stessa, ma credo che questo sia difficile, perché chiaramente se uno produce farmaci quello che vuole fare è venderli, non smettere di venderli. Sì, assolutamente. Però questo, no, insomma, infatti non entro nel merito della no, lo dico solo, è banale, però insomma tanto per... è una cosa abbastanza semplice, però a volte sfugge, no, poi nella complessità del tema, però. Sì, assolutamente, ma anche noi ci siamo fatti tutto un ragionamento su questo, perché inizialmente appunto criticavamo la psichiatria che voleva essere un po' una pseudoscienza, e poi ci siamo fatti questo ragionamento, ok, ma in gran parte è applicabile anche alla medicina in generale, quindi assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi ecco, quello che succede è che l'American Psychiatric Association, a braccetto con le case farmaceutiche e con altre organizzazioni internazionali della salute mentale, rilancia il modello medico promuovendo tutta una serie di ricerche a favore di questa concezione, che sostanzialmente mostrano il valore indispensabile degli psicofarmaci nel trattamento della malattia mentale. Dico solo due ultime cose sull'AFA, cioè l'American Psychiatric Association, per diciamo chiarire di che cosa stiamo parlando. È un'associazione importantissima perché si occupa di redigere e aggiornare il DSM, cioè il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che ora è arrivato alla sua quinta edizione, che è la vera Bibbia degli psichiatri. Il DSM definisce i confini della patologia, cioè racchiude tutte le possibili diagnosi dei diversi disturbi mentali e determina attraverso una serie di criteri piuttosto arbitrari che cosa rientra ed esce dalla norma. E questo ovviamente vuol dire tantissime cose, vuol dire anche determinare chi è passibile di PSO o insomma di tutte le altre forme di cura coercitive che dipendono dalla psichiatria. E oltre comunque avere un impatto a livello sociale gigantesco, perché anche se il DSM ora lo nomino, alcuni di noi sicuramente lo conoscono, ma magari insomma non è una cosa così conosciuta, eppure ha un impatto a livello sociale non indifferente. E se pensiamo anche che in una delle vecchie edizioni, ad esempio, l'omosessualità rientrava all'interno delle patologie, e insomma poi quando c'è stata diciamo la revisione della edizione successiva, scompare l'omosessualità e tutto un tot di persone nel mondo si risvegliano e non sono più malate. Così come avviene con l'omosessualità, questo è un esempio che facciamo spesso perché magari è facilmente comprensibile, allo stesso modo avviene per tantissimi altri diciamo disturbi diagnosticati all'interno del DSM. E insomma questo più o meno è quello che andrà a dire sicuramente molto bene WeTaker martedì 16. Bene, senti, un'ultima cosa, proprio perché insomma da quello che dicevi ultimamente poi emerge tutto un aspetto diciamo che non è solo, chiamiamolo così, medico o scientifico, ma anche ovviamente un aspetto politico e sociale molto forte, perché appunto nella definizione e continua ridefinizione di che cos'è normale e che cos'è patologico, all'interno di queste categorie rientrano per forza, diciamo, quelle che sono appunto delle categorie politiche, per cui diciamo sicuramente la psichiatria ha una funzione di controllo sociale, come lo chiamiamo noi, ma anche nel libro mi sembra che c'è un riferimento a un discorso che, non so, io definisco un po' di classe, ovvero che tipo di utilizzo c'è tra di farmaci, o comunque quanto si patologizza all'interno di, per esempio, di alcuni strati sociali e quanto si fa in altri, quindi parliamo di chi, insomma, dei ricchi e dei poveri, per essere, insomma, usare un linguaggio semplice. Quindi su questo immagino anche, mi sembra che il libro approfondisca un pochino anche questo tema. Sì, assolutamente, e lo approfondiamo anche noi spesso in realtà. Ma già dalla nascita dei manicomi, insomma, i manicomi erano un luogo probabilmente creato apposta per poi tenere a bada e rinchiudere tutte le persone povere, e oggi quello che succede è che, ok, non ci sono più manicomi, ma non dimentichiamoci, ci sono in questo momento le REMS, che sono insomma dispositivi analoghi, anche se abbelliti, resi più piccoli e sempre più invisibili all'occhio, per cui insomma un po' meno terrificanti. Ma quello che succede oggi, ad esempio, come insomma possiamo leggere dai giornali molto spesso, è che durante gli sfratti vengono, insomma, il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, viene fatto molto spesso di fronte a una persona che va cioè che comunque insomma mostra qualsiasi tipo di sentimento, giustamente, legittimamente rabbioso, nel momento in cui insomma ti vogliono sbattere fuori da casa tua. E qui parliamo comunque di una divisione tra ricchi e poveri, oltre al fatto che probabilmente insomma chi ha chi è messo bene economicamente si può anche permettere di scegliere il proprio psichiatra, e quindi insomma ci sono tutta una serie di conseguenze rispetto a questo. Assolutamente, poi insomma sappiamo quanto costano le psicoterapie e anche questo, insomma, l'accesso a determinate terapie anche più lunghe, anche magari che non prevedono per forza l'utilizzo preventivo dei farmaci, non è un qualcosa che, insomma, a cui tutti e tutte possono accedere facilmente, quindi sicuramente questo aspetto è importante. Sì, certo, poi insomma siamo in una società abituati che c'hai un problema, c'è la pillola, quindi al di là dei soldi del costo delle terapie, sicuramente come primo impatto può essere più semplice anche per una cosa molto piccola scegliere un rimedio immediato, e anche questo nel libro c'è, perché a me quello che mi ha sconvolto molto del libro, al di là del lavoro di ricerca sicuramente insomma serissimo, lui a ogni fine capitolo riporta dei casi che sono insomma le persone che lui ha incontrato in questi anni in cui preparava questo lavoro, e quello che mi ha impressionato è che sono, diciamo, cioè siamo noi, come dire, siamo tutti noi, sono storie di vita estremamente non mi piace dire normali, però insomma estremamente ordinarie, che in un momento di difficoltà, o perché consigliati o perché adolescente, quindi ci portano i genitori, insomma in qualche modo cominciano ad esempio una terapia farmacologica, e da lì si crea un po' questo destino di incastro in questo meccanismo, che non è solo coercitivo da un punto di vista oggettivo, anche se lo è, cioè nel senso che ovviamente nel momento in cui come dire, ricadi all'interno di alcuni meccanismi psichiatrici come il TSO o l'ASO, e quindi si tratta di appuntamenti in cui tu ti devi recare, perché se non ti ci rechi ti portano l'ambulanza a casa. Oltre a questo, appunto va incontro a una modificazione del tuo pensiero, del tuo quotidiano, che in qualche modo può essere deleteria nel lungo termine, soprattutto ovviamente se stai in una fase di sviluppo, quindi in adolescenza o in giovane età adulta, ma in qualsiasi fascia di età. Certo, poi quello che dicevi tu credo sia una delle cose più importanti, il fatto che la ricerca continua di un effetto immediato, di una cosiddetta, lo uso anch'io, le virgolette virtuali, cura immediata che ti consente in qualche modo di svolgere determinate funzioni all'interno della società in cui vivi, per cui poi a quel punto sei normale e quindi non sei più patologico o patologica, quindi diciamo che il cerchio si chiude lì. Poi ovviamente nel libro c'è anche un approfondimento su quello che avviene appunto nei paesi poveri, e fa notare anche quante differenze ci siano, no, tra paesi, diciamo, che vengono chiamati quelli del primo mondo e più sviluppati, e quelli invece che sono meno sviluppati da un punto di vista economico, e però presentano, cioè, una forbice percentuale di casi clinici da un punto di vista psichiatrico che fa pensare, insomma. Sì, è proprio diciamo quello che ha spinto poi Whittaker a portare a indagare questa epidemia, cioè il fatto che non gli tornavano queste stime rispetto alla schizofrenia, nel senso che negli Stati Uniti erano molto più alte, mentre nei paesi poveri come l'India e la Nigeria c'era un tasso di rientro, come dire, e quindi di non cronicità della condizione psichica molto più elevata. E questo perché evidentemente non solo la schizofrenia probabilmente viene letta attraverso una lente diversa e meno patologizzante, ma in più c'è tutto, insomma, probabilmente un tipo di rete sociale, di comunità, che ovviamente è ben diversa da quella delle società occidentali come gli Stati Uniti, che poi sono un po' il massimo esponente. Assolutamente, bene, quindi non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no magari ti chiedo di ridare l'appuntamento, così chi ci ascolta può segnarselo e ricordarlo bene. Sì, ok, allora quindi questa iniziativa sarà martedì 16 a partire dalle 18:30 alla sala ovale del Parco delle Energie, quindi dentro al parco, e il parco si trova in via Prenestina 175. Perfetto, noi ti ringraziamo davvero, è stato insomma un bel contributo, poi magari ci riprometteremo anche di continuare un po' queste discussioni su questo tema, perché poi insomma se ne potrebbe parlare per ore. Tu ne hai fatto un accenno breve alla questione REMS, noi insomma qui in trasmissione diverse volte abbiamo toccato anche questo argomento, e ovviamente anche il collegamento che c'è tra tutto l'apparato psichiatrico e il mondo carcerario è anche quello un grandissimo tema che insomma è assolutamente necessario e importante continuare ad approfondire. Quindi assolutamente. Noi ti ringraziamo. Avrebbe aperto ogni volta una discussione lunga su ogni tipo di questione, sì. Quindi molto volentieri. Bene, bene. Al più presto. Allora ce lo segniamo, così sicuramente ti richiameremo. E, insomma, anche di tutto questo immagino se ne parlerà martedì 16, quindi importante partecipare proprio perché sono temi veramente che toccano il quotidiano di tanti e tante di noi. Quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare e ti ringraziamo. Un abbraccio e a grazie presto. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E allora, quella che abbiamo ascoltato era una corrispondenza con una compagna del collettivo Senza Numero che appunto ci ha parlato dell'attività che svolgono qui in città e non solo. E ci ha presentato questa bella iniziativa che ci sarà martedì 16 ottobre alla Sala Ovale del Parco delle Energie. Quindi noi